voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. E lo volete sapere qual è il nostro gesto d'amore? Va bene, che si fa? Si chiede il caffè? Il caffè! Thank you. iniziata la seconda parte di Eclettica, dopo che la prima si era chiusa con Bright Eyes, passati per l'ennesima volta, ma sono sicuro che non vi ha stufato neanche questo ennesimo passaggio di No One Would Riot For Less. Seconda parte che si è invece aperta con Simple Kid. Giulio Caperdoni in vostra compagnia, come ogni giorno della settimana sulle frequenze di Rock FM, raggiungibile all'indirizzo di email giulio@radiorockfm.com. Poi c'è anche lo spazio myspace.com/eclettica su cui trovate le istruzioni per il podcasting di questa trasmissione. Ci ascoltiamo ora un disco uscito da pochissimi giorni, il 21 di agosto, per la formazione californiana di nome Early Mart. Mentor Tormentor è il titolo dell'album in questione, un disco che si allontana un po' dai suoni alla Granddaddy a cui ci avevano abituato gli Early Mart, grazie alla vicinanza fisica che c'è fra i due gruppi. Un disco quindi che si svincola da queste atmosfere, che intraprende nuove strade e che noi abbiamo la possibilità di ascoltare su Rock FM con il pezzo dal titolo Happy Alone. Until I see you walking home. Sulla strada per Bassora, ecco il giovane tenente Jimmy Bligh, con l'incarico di badare ai vestiti dei soldati morti. Di notte nei suoi sogni vede le loro anime alzarsi, come tante oche nere nel cielo dell'Oklahoma. Bene, questa è una preghiera per le anime dei defunti, per coloro che se ne sono andati, lasciando le loro piccole col cuore spezzato. Questa è una preghiera per le anime dei defunti. Rafael Rodriguez aveva solo 7 anni, ucciso nel cortile della scuola da qualche pazzo di East Compton. Sua madre piangeva: «Il mio meraviglioso piccolo è morto!» Sulle colline gli uomini, tutti di un pezzo, sospirano e scuotono la testa. Bene, questa è una preghiera per le anime dei defunti, per coloro che se ne sono andati lasciando le loro piccole col cuore spezzato. Giovani vite spezzate non appena cominciate. Questa è una preghiera per le anime dei defunti. Stanotte, mentre metto a letto mio figlio, non posso non pensare che avrebbe potuto esserci lui in quel cortile. Voglio costruire un muro così alto che nessuno lo possa abbattere, proprio qui, sul mio sporco pezzo di terra. Ora io recito la mia parte nelle terre del Dio Dollaro, dove vieni pagato e il tuo silenzio è confuso con l'onore, e tutte le odiose e sporche piccole bugie sono cancellate dai libri e scritte negli occhi di uomini per bene. Questo era Souls of the Departed di Bruce Springsteen. farci questa piazzata in questa bella serata che ci stiamo divertendo? Ma c'è scatta d'oca! Pirivi! Questa Spend the Night on the Floor dei bresciani Don Turbolento. Quando trasmisi per la prima volta i Don Turbolento vi raccontai della loro storia, del dialogo che ebbero con la Discord, che si disse interessata soprattutto alla traccia che noi abbiamo appena ascoltato, ma che purtroppo pubblica solo band della zona di Washington DC, e Brescia è troppo lontana da Washington DC. A riprova di questo dialogo avvenuto, hanno comunque utilizzato quel dialogo via lettera per la copertina del loro disco d'esordio. Prima ancora Days Without Rain da parte di Patrick Lynn Denim, ed ora Eclettica, che prosegue con un nome nuovo proveniente da Chicago. Loro sono in 7, 4 uomini e 3 donne, si chiamano The 90s, un disco in uscita il 2 di ottobre per Parasol dal titolo Cold and Kind. Questa è Georgia. What's on my mind? You said you Avevo 8 anni e stavo correndo con una monetina in mano verso la fermata dell'autobus per prendere il giornale a mio padre. Mi sedevo sulle sue ginocchia in quella grossa vecchia Buick e guidavo mentre attraversavamo la città. Lui mi scompigliava i capelli e mi diceva: «Dai una bella occhiata in giro, questa è la tua città». Nel 65 la tensione saliva alla mia scuola superiore. C'erano molti scontri tra neri e bianchi, non ci potevi fare nulla. 2 auto al semaforo un sabato sera, sul sedile posteriore c'era una pistola. Le voci si sparsero alla velocità di un proiettile. Erano arrivati i tempi difficili nella mia città. Adesso sulla strada principale ci sono solo vetrine imbiancate e negozi vuoti. Sembra che nessuno voglia più venire qua giù. Stanno chiudendo lo stabilimento tessile dall'altra parte della ferrovia. Il caporeparto dice: «Questi posti di lavoro se ne stanno andando, ragazzi, e non torneranno mai più nella vostra città». L'altra notte io e Kate ce ne stavamo a letto, parlando di andarcene via, fare i bagagli e forse dirigerci verso sud. Ho 35 anni e abbiamo un figlio nostro adesso. L'altra notte l'ho messo a sedere dietro al volante e gli ho detto: «Figliolo, dai una bella occhiata intorno. Questa è la tua città». Questa era My Hometown di Bruce Springsteen. Stagione numero 13, settimana numero 45, volume numero 4. Indice: Oh Death, ex Otago, The Pains of Being Pure at Heart, The Sleeping Years, The Mohawk Lodge, Bright Eyes, Simple Kid, Early Mart, Patrick Clendenning, Don Turbolento, The 90s, Figurines. Giulio Capperdoni vi saluta, vi ringrazia e vi rimanda a domani, sempre alle ore 19. Sulle frequenze di Rock FM.